Quindi follica si lascia qui, grazie. Direi che possiamo iniziare puntuali. Grazie di essere numerosi questa nostra serata nella settimana di carnevale. Ecco, siamo molto contenti di avere con noi come ospite l'autore del libro di questa sera, Bolzano Caput Mundi, che è appunto Roberto Tubaro qui con noi e che è accompagnato dai suoi colleghi, amici, compagni di avventure del Cababox, esperti. Scusate, ecco, del Cababox, non devo leggere i loro nomi perché ho visto un Diego, un Vladi, ecco, Diego Baruffaldi, Riccardo Feller, Gianluca Nicolano e Vladi Martello. Come potete immaginare, è una serata diversa da quelle che organizziamo e per fortuna, ecco. Dicevo prima a Roberto Tubaro che è bellissimo questo libro perché è riuscito con grande ironia, ed è un'arte anche molto complessa e difficile, è riuscito a drammatizzare quello che è un po' una cosa che ci accomuna, quella di considerare la nostra città, Bolzano, come un caso veramente eccezionale, a parte l'unico del mondo, insomma, un po' al centro di tutto, di tutti gli eventi, di tutte le storie, e anche, diciamo, un po' un atteggiamento drammatico in cui si vive spesso questa nostra caratteristica. Invece la sapiente intelligenza e ironia di Roberto è riuscito a descrivere attraverso degli articoli immaginari una storia diversa, una storia anche innovativa, simpatica, che fa riflettere. Non aggiungo altro, non abbiamo qui appunto gli amici di Roberto che ci aiuteranno nell'enfatizzare questa parte così ironica che Roberto ha espresso in questo libro. Vi ricordo anche che la biblioteca provinciale, che ha una sede proprio in questo edificio presso il centro Trevi al piano terra, organizza altre iniziative. Lunedì prossimo ci sarà un libro sulla storia della Piazza delle Erbe, perché a piacere, sempre presso questa sera alle ore 18 ci ritroveremo con l'autore di questo libro. E poi ogni settimana, il martedì dalle 15.30 alle 16.30, organizziamo corsi gratuiti per imparare ad usare la piattaforma BiblioWeb. Con questo ho terminato il mio spot, vi lascio campo libero e ringrazio ancora la presenza di questi simpatici amici che ci aiuteranno in questa serata. Grazie. Di pure sì. Allora, io avrò il difficile compito di moderare la serata e ringrazio Roberto che si fida di me, si fida del fatto che io sia un esperto di moderazione, come ha scritto al centro di Trevi della biblioteca. Ti ringrazio davvero e ci tengo a precisare che tutto quello che vedrete è falso. In un periodo di fake news devastante, ecco, noi, Roberto, metto, ti prego, avvisa subito di questa cosa. Non è vero nulla, o forse sì, perché poi c'è di testarlo. Tant'è che qualcuno in una libreria è andato a chiedere se Martin Luther King fosse veramente venuto ai tatuaggi. Questo è vero, no? Siamo nel 2018, con Facebook e internet succedono anche queste cose. Ora che mi siederò, partirà tutta la realtà di questo libro, ok? Abbiamo deciso di non usare il microfono, o lo vuoi usare? No, meglio usarlo. Decido, usiamo, meglio usarlo, ok. Allora partiamo con una parte sempre ingrata, Roberto, che è quella dei ringraziamenti, che mi hai chiesto di fare subito. Ringraziamo Centro Trevi, la Biblioteca Claudia Augusta, Morellini Editore, France Magazine, con tutte le sue collaboratrici e collaboratori, Carmen e Pietro, senza i quali tu non saresti qua, Laura, tutta la sua famiglia, Santiago, compagna anche d'amore fraterno, Greta, compagna d'amore basta, io compagno d'amore sessuale, questo è un coming out tutti i morti citati in questo libro li ringraziamo, senza i quali non avreste scritto nulla: Martin Luther King, Leonardo, Hitler, Vittorio Emanuele, Marilyn Monroe, John Lennon, Rolling Stones, il buono, il brutto e il cattivo, sono morti tutti. Ella Fitzgerald, Django Reinhardt, Einstein, Elvis Presley, Magnago, Michael Jackson, i Beatles, insomma tantissimi morti, tantissimi morti. Non sapevo che Beatles fossero morti. Sono pochi vivi, pochissimi vivi. Dunvalder, hai citato John Lennon, Dunvalder, e poi ci sembrano Boss e la Klotz, però abbiamo deciso di tenere solo Dunvalder, non abbiamo solo Dunvalder. E poi ringraziamo in anticipo i nostri esperti di esperienze, coloro senza i quali questa serata non avrebbe senso, e non avrebbe il valore che invece tu hai potuto dare invitandoli. Ringraziamo in anticipo, loro sono Gianluca Ioconetto, che poi li vedrete, Gianluca Ioconetto, esperto in sottile obesità, Valerio Marteller, presidente onorario, decidete voi di cosa, e Richard Bullegard, storico del Tirolo, unito e diviso. Questa è la differenza dagli altri esperti. Comunque fate un applauso intanto a Roberto. Sono molto occupato perché io non mi vedo visto, ed è difficile parlare di te. Comunque cercherò di dire qualcosa e farti delle domande intelligenti. Non mi riesce molto perché non so parlare bene l'italiano. Diego l'ho chiamato per non dire niente. Esatto. Sì. Scrivere ancora meno, però Roberto Tubaro, classe 80. C'è sempre una breve biografia che fa il moderatore. Me l'ha insegnato il mio insegnante di moderazione. L'esperto di moderazione. L'esperto di moderazione, ragazzo. 3 anni di studi pagati dai genitori, comunque sono un bamboccione anch'io. Classe 84, studia come geometra, poi ingegnere, poi musicista. Quindi potevi scegliere 3 cose. Rimanere uno come tanti altri, insomma. Il geometro. Fare soldi come ingegnere architetto oppure diventare un poveraccio. Ma tu hai scelto la quarta via, quella dello scrittore Roberto Tubaro. Ancora più poveraccio. Ancora più poveraccio. Come nasce l'idea di questo libro? Allora, l'idea nasce da una delle domande che mi faccio spesso, che è: cosa succederebbe se? Allora, unita questa al fatto che siamo in una provincia che è convinta di essere al centro del mondo, l'ombelico del mondo, allora sono nate una serie di cose che si possono sintetizzare in: cosa succederebbe se questo evento fosse successo in Alto Adige, e la seconda cosa è: cosa succederebbe se questo personaggio fosse nato in Alto Adige. Allora, da queste domande ho iniziato a scrivere dei piccoli racconti con dei fotomontaggi per France, no, prima su Facebook, poi Anna Quinzi di France Magazine mi ha chiesto di pubblicarli per France Magazine. Da lì, una volta a settimana, sono nati una cinquantina di articoli che poi sono stati pubblicati appunto in questo libro, grazie a Morellini editore, che li ha messi tutti assieme. Questa è l'idea generale. Dopo li vedremo uno alla volta, molto velocemente, quindi così non mi soffermerei sulle domande riguardanti i capitoli, anche se secondo me la curiosità di tutti, ed è la classica domanda da moderatore, anche questa era la terza lezione, fai sempre una domanda che faccia sentire il protagonista, lo scrittore oppure il musicista, insomma, è: a quale racconto però tu sei più affezionato? Si fa così, lo dicono poi i musicisti, dicono a tutte, o okay, quella che deve venire, a quella che deve ancora venire. Grazie Diego per questa domanda. Bravo. Per me, la storia più importante è quella che deve venire. Bravo! Avrei detto a tutte, perché tutte, però quella che deve venire per me è quella più importante. Infatti chissà cosa verrà più avanti. Adesso arriviamo quasi alla verità o non verità dei tuoi articoli, no? Però ancora cerchiamo di entrare nella persona Bob Tubaro, Roberto Tubaro, Carlo Jimenez, che si dà del tono inventandosi cognome. Allora, se è considerato, pur non essendo entrato nella lista di Bolzano in Comune come miglior influencer, è avvinto Alan Conti, sappilo, questa cosa ti fa star male, lo so. Si è considerato però da molti, forse da persone più importanti di Alan Conti a livello artistico, uno dei creativi più importanti di Bolzano, lo sapevi? No. Per il porto, non hanno fatto ancora la classifica Bolzano in Comune. La proponiamo, c'è qualcuno di Bolzano in Comune qua? Proponiamo noi come il miglior creativo. Ma queste idee, che siano vere o false, come nascono? Ovvero, tu sei un bravissimo disegnatore, sai usare benissimo programmi al computer. Nasce prima l'uovo o la gallina, ovvero l'immagine o la storia? È difficile questa, Un mix delle due cose. A volte partivo da un'immagine, perché magari avevo Cassius Clay sul ring, sono partito da quella e ho scritto la storia. A volte sull'avvenimento, non so, il crollo del muro di Berlino, che è diventato il crollo del muro di Bolzano. Quindi un mix delle due cose, un po' una, un po' l'altra. Grazie. Quarta domanda, quarto giorno di lezione, si inizia sempre una domanda in questo modo. In una tua precedente intervista, in modo tale che uno fa vedere che ti ascoltò, sono andato a cercare, in una tua precedente intervista, ma anche prima l'hai detto, hai dichiarato che tu stesso non sai più qual è la realtà, se queste notizie siano vere o siano false, o meglio, nascono come false, ma a un certo punto ti sei convinto anche tu che siano quelle vere. Ma quindi, Bob Tuvaro, le vicende che ci racconti in questo libro, che nessuno di noi ha letto, volevo precisare, nessuno, perché fa così un esperto e un moderatore, non leggono i libri, vanno e quello che viene. Queste vicende di cui parli in questo libro, compratelo, sono vere oppure no? Allora, all'inizio ero convinto, perché visto che ho fatto i fotomontaggi, ero convinto che fossero tutte false, no? Poi a mano che continuavo a farle mi sono autoconvinto che fossero vere, e adesso sono convinto, e cercherò di convincere anche voi, che sono tutte in realtà vere. E sono venute fuori da quegli scandali WikiLeaks, dove sono venuti fuori tutta una serie di dossier di superpotenze e cose del genere. Anche lì si possono trovare questi documenti che hanno nascosto questo Alto Adige, che in realtà sarebbe una delle principali potenze del mondo, ma che le grandi potenze attuali, Stati Uniti, Cina, Russia, tutte, hanno cercato di tapparci le ali, e pian piano hanno cancellato tutti questi documenti. E noi pian piano stiamo cercando di riconquistarci questa posizione che ci spetterebbe da diritto. Perché la lezione 5 era dare da bere a chi parla. Aspetta, okay. L'ho chiamato per questo. Ci chiedevamo prima con gli esperti, mentre stavamo sorseggiando il nostro cognac, se per caso hai ricevuto critiche da qualcuno, da quella pubblicazione. Ho ricevuto varie critiche. Una persona mi ha detto che il Titanic, che dopo vedrete non è il Titanic, ma è uguale, identico al Titanic, ma si vede che c'è stato un modello simile al Titanic. Uno mi ha scritto: quello non è il Titanic, è il 447 del 76. Vabbè. Altri hanno criticato molte altre cose, e è stato criticato e basta questo libro. Adesso me ne fai rendere conto. Compratelo ancora con più forza. Ma visto che tanti hanno criticato l'autenticità di questi racconti, di questi eventi, abbiamo deciso di invitare questi tre esperti che oggi saranno qui con noi. Giancarlo Iocoletto, esperto di superiorità. Valerio Marteller, abbiamo detto prima, presidente onorario. Richard Bullegard, esperto del Tirolo unito e del Tirolo diviso. Allora, se volete dire una piccola parola su di voi, iniziando da chi ha il microfono, quindi Gianluca Iocoletto. Ecco, sì, inizierai io, a discapito del nome. Io sono di madrelingua tedesca, quindi perdonatemi se farò qualche errore nel corso dell'anno sul discorso. Da 16 anni sono non credo che ci sia molto da ridere. Da 16 anni sono professore ordinario all'Università di Innsbruck, appunto di questa materia che qui si sono inventati. E vorrei dire subito una cosa di Roberto Tuvaro che ancora non è stata detta, che probabilmente invece io l'avrei messa come potenzialmente cosa più importante da dire di questo autore, è che soprattutto in questo momento c'è bisogno, visto che stanno nascendo in Europa e nel mondo molti di questi movimenti, che Roberto Tuvaro in realtà è un transessuale, è una donna e dove appunto si è disegnato questa barba, e questo spiega anche molte cose rispetto alla sua scrittura, perché appunto lo porta poi a questa sensibilità femminile a scrivere determinate cose. Potete ritrovare questa leggerezza anche nei libri, ad esempio, di Sveva Casatimo di Gianniera. Ecco, e questo è per me, grazie. Intanto posso passare agli illustri colleghi di lavoro. Grazie. Buonasera a tutti, io sono il maestro Valerio Martello, professore universitario. Io mi occupo nello specifico di storia del mondo, possiamo dire. Ho trovato molto interessante questo libro e dopo avrò il piacere di illustrarvi alcune riflessioni che ho fatto in merito. Passo la parola al mio esimio collega. Grazie, professor Martello. Allora, buonasera a tutti, sono il professor Richard Bullega. Scusi, prima infatti sembrava un po' aspirata. Ad Avignone si pronuncia così. Sono stato abate di Avignone dal 1216 al 1617, e lì che ho conosciuto il dottor Tubaro. A quel tempo era ancora una donna. E già si notava comunque la sua sensibilità femminile, creatività. E non diciamo cosa facevo nell'abbazia. Dirlo a questo punto sarebbe un'abbazia. Ecco, quello che mi piacerebbe dire di questa opera del dottor Tubaro, che questo farà piacere credo all'editore, perché finalmente con questa sua questa una delle sue tante opere, ma con questa opera direi che il dottor Tubaro ha finalmente coniugato i verbi proprio. No, tra l'altro c'è una piccola sorpresa, Roberto. Il signore, il dottore, non so chiamarla, l'abate Richard Bullegar, è non solo esperto di storia, storico, insomma, ma anche esperto di Roberto Tubaro. Lui ha fatto la biografia. È il mio biografo. Quindi se non so se vuoi dire qualcosa o vuoi dire dopo su Roberto Tubaro, ma che nessuno sa, nemmeno lui. Due chicche, due cose, insomma, due particolarità del Roberto Tubaro più privato, diciamo che allora. Non voglio sapere come mai qualcuno ti così nel privato da parte di minorenne, quindi non so. Va bene, non andiamo in simulato. Poi i graffi delle sue unghie sulla schiena. Comunque, dottor Tubaro, come si lascia andare questo moderatore parte, come si il moderatore cerca di stare a casa tutti, prego. Andare. Allora, il dottor Tubaro è sempre stato una persona umilissima, bisogna dire. Basti pensare che nel privato il dottor Tubaro è alto 3 metri e 20 però se ne vergogna. Sono piccole cose. Il dottor Tubaro, che praticamente è il Paolo Diacono della contemporaneità, tutti lo consideriamo tale. Siamo tutti d'accordo. Siamo tutti d'accordo. È che Tubaro, intanto, oltre ad essere stato un grande scrittore di romanzi, chi non si ricorda Il volo di Jean-Paul? Quando lo scrisse questo? Questo nel 252 avanti Cristo, negli anni 50. Oltre ad essere stato un grande scrittore, è stato, come accennava il moderatore poco fa, è stato musicista, è stato ingegnere, è stato architetto, è stato fotografo, è stato orfo, è stato attore di teatro, è stato fantino, è stato addirittura assistente sociale donna, figuriamoci. Anche trampoliere. È stato immobiliarista, è stato informatico, è stato informato sui fatti, è stato rigattiere, è stato rigatore, è stato riga in mezzo, è stato riga in parte, insomma è stato sempre uno che ci tiene alla riga, diciamo, gli piace la riga, diciamo. Ecco, l'unico difetto, se possiamo parlare anche di criticità, sì, parliamo di parliamo, anche perché tutti Tubaro non consideri, non deve neanche considerare i detrattori, perché chi non critica non crotica. L'unica criticità che possiamo attribuire a questo esimio personaggio è che tutte queste cose il dottor Tubaro le riesce a fare solo contemporaneamente. Grazie, grazie. Richard Guglielmo, esperto di storia e di romanzo. Adesso entriamo però nel libro, che è il motivo per cui siamo qui, e quindi ti chiediamo e ti chiedo di iniziare a parlare delle storie contenute in questo libro. Quindi a mano, a ruota libera, così. A mano non era bello, a mano libera. Ho deciso di partire con uno pizzico di originalità dall'inizio, no? E quindi siamo originale. E quindi qua, per esempio, vi faccio vedere degli esempi che poi commenteremo insieme con i nostri esperti, se no non li ho pagati a fare. Cioè, qui per esempio siamo a Bolzano, Gries, è qua importante dire che ancora nel 1889 Gries era comune autonomo, quando c'è stata l'esposizione universale di Bolzano Gries. Bolzano era la capitale ancora dell'impero austro-ungarico, era chiamata la città delle luci. Tutti volevano vivere qua, c'era tutto un movimento, tutta una serie di cose che troverete sul libro, finché è stato deciso di costruire questa torre Eiffeller. Poi il sindaco, che non mi ricordo bene come si chiamava, perché il borgomastro Josef von Breitenberg in realtà ha deciso di regalarla ai francesi, e quindi non c'era, perché c'è stata una serie di critiche e alla gente non piaceva questa torre. Andiamo avanti. Qui abbiamo la partenza del Titanic, che in realtà, non è Titanic. Non è Titanic, sappiate. Questo qua non è Titanic, è il modello 2 del 460, boh, non so, che è partito dal lago di Caldaro. Vedete la gente che cercava di entrare, tutti volevano andare negli Stati Uniti, e l'Alto Adige, poi ancora sui Tirol pieno, perché siamo prima della prima guerra mondiale. Ha deciso quindi di portare, ha detto, ma perché, allora ha fatto un canale, un grande canale dal lago di Caldaro fino al mare, un grande canale che ha costruito quello che ha costruito il canale di Suez. Come? John Suez. Ho chiamato gli esperti per questo. E dentro era pieno di sedili in löden, mele, speck, rubinetti con la birra. Il motore, c'era. Puoi anche descriverlo. Il motore, c'erano dei cavalli che erano belignesi. Era un trenino della Fuscheria. Praticamente sì. A quel tempo c'era ancora il trenino della Fuscheria. Non sapevano su cosa puntare, poi alla fine hanno puntato sul Titanic. E poi hanno detto, ma perché dobbiamo andare sui freddi mari del nord quando potremmo andare a passare per le Canarie, dove aveva un traffico di mele con Spagna? E quindi sono andati verso le Canarie e alla fine loro sono arrivati a New York. Questa è la storia del Titanic. Poi qua abbiamo la Gioconda di Leonardo da Vinci, che ridono perché voi ormai siete convinti che questo non sia il mondo vero, no? Invece in realtà queste sono le verità. Leonardo da Vinci ha questa, che in realtà si chiama Die Heiter, la Gioconda, vestita quei abiti tipici dietro, potete vedere Rosengart. Poi qua nel libro c'è quell'avvenimento che è successo appunto nel 1913, quando è stata rubata dal Louvre, no? Perché un altoatesino ha detto, no, è altoatesina la nostra Gioconda, voleva François Louvre. E niente, poi c'è scritto come viene ritrovata questa Gioconda e dove. E qua arriviamo al 1933, quando ci sono anche altri articoli, quindi potete comprare il libro per leggere quello in mezzo. Stanno alzando la mano qua. Qua però abbiamo appunto un esperto, vi dico solo che c'è Hitler e Mercatini, dietro sembra New York, invece c'è sembra dei grattacieli, invece è Campofranco, sarebbero le luci del Campofranco, ma da qua sembra un po'. Ma per questo lascerei la parola al professore. Sì, io voglio ringraziare Roberto Tubaro per aver contribuito a rischiare il contesto storico altoatesino attraverso questo lavoro che io definirei vivace e corrompente, e dall'altro valore scientifico. Io non mi dilungherò molto, però vorrei esprimere un paio di concetti su questa foto. Potremmo definirla l'archetipo dell'Ucronia. Perché dico questo? Dico questo perché Hitler era un uomo molto fortunato. E quando dico fortunato non intendo quel senso comune che tende ad attribuire positivamente ciò che ogni uomo è in dote. ma quando dico fortunato lo intendo nel senso di avere culo. Perché Hitler è una persona a cui piaceva vincere facile. Se fosse vissuto ai giorni nostri avrebbe fatto incetta di gratta e vinci. Io spero sempre che mi compaia in sogno rivelandomi un terno secco da giocare sulla volta di Napoli. Hitler era un uomo fortunato perché, come forse alcuni di voi sapranno, durante la sua carriera politica è scampato a più di 40 attentati rivolti contro la sua persona. Ma c'è di più. Durante la prima guerra mondiale egli era caporale arruolato dall'esercito tedesco e la sua vita fu risparmiata da un soldato inglese che, vedendolo ferito, desistette dall'intento di ucciderlo. E qui diciamo si collega il lavoro che il dottor Tubau ha fatto, perché vorrei farvi porre l'attenzione sull'espressione di Hitler. È una mezza via tra l'imbarazzato e rassegnato. Costretto dai due amici con cui era venuto al mercatino, Speer e Wiesler, fortemente motivati da un alto tasso alcolico dovuto al quantitativo massiccio di vingole che avevano bevuto, costretto, dicevo, a mettersi quella cazzarola sulla testa e oltretutto a farsi fotografare con essa. Ecco, perché è importante questa foto? Perché da questa foto traspare l'umanità di questa persona. Questo è il momento in cui, assieme a uno di quei momenti, dei 40 attentati che lui ha subito e della possibile uccisione che ha avuto, in cui la storia del mondo poteva cambiare. Hitler in questo momento poteva farsi coinvolgere dallo spirito natalizio, abbandonando i suoi folli propositi che purtroppo con l'andare degli anni hanno prosciugato da lui quell'umanità che qui ancora si vede. Sappiamo purtroppo che la storia non è andata così. Ora io potrei aprire un fruttuoso dibattito con voi sull'ineluttabilità della storia, ma non è questo il luogo e quindi concludo il mio intervento. Valerio Marchelli, però vuole anche la parola a quello che ho detto. Che per entrare nel dibattito, quindi è stata colpa del cerchietto? Il cerchietto in realtà avrebbe potuto salvare lui e salvare tutti noi, ma così non è stato. Grazie. Forse bevendo, penso io, qualche altro boccale di vingolè, magari la situazione avrebbe potuto cambiare. Pensa a te, a volte la storia, come va, come cambia da vingolè, anche risapurina. Sì, aggiungerei anche che dopo ci fu anche una grande scorpacciata di Krauti con Carrelli e Maiale, ed è lì che Hitler, se non vado errato, ebbe la colite svastica. Beh, e pare anche un'altra cosa, non so se l'ha detta professore, no, ma che comunque sia andata la storia, questa visita al mercatino e al Campo Franco ha portato Hitler a scrivere il suo grande libro Mein Kampf Frank. Questa è la parte importante, e se volete saperne di più dovete comprare lì. Un attimo solo, no, dicevo, questo è emerso dalla ricerca di Roberto Tubau, che io ho apprezzato anche per la rivelazione di questo retroscena che pochi sapevano. Io, professor Marteller, e nel frattempo, come i grandi moderatori, mentre parlavo scrivevo, perché bisogna darci un tono così, 33, 40, 25 sulla ruota di Napoli, 33, 40 gli attentati, 25 il Natale, che avrebbe cambiato il mondo. Rilasciamo la parola però a Roberto Tubau. Ok, andiamo avanti, siamo nel 44. Malta quando c'è stato lo sbarco degli alleati. Bolzano era diventata il centro operativo della Germania nazista, comunque del nazismo. Hitler a questo punto era effettivamente in mezzo in centro a Bolzano. Stalin cosa ha fatto? Assieme all'idraulico di Dobbiatco Renzo Certosutti ha fatto un grande, ha scavato su lungo l'Adige, lungo l'Isacco, per arrivare in questo punto che è la confluenza tra il torrente Talvera e l'Isacco. Si può riconoscere un po', ci sono degli edifici, il castello, la Val Salentino. Ma di questo regno di nota, che nel frattempo, mentre gli alleati stavano sbarcando, i tedeschi stavano trasmettendo interrottamente la canzone del cantautore nazista, scritta dal cantautore nazista Francisco von Gregoren, dal titolo Rommel, dedicata al fratello. Andando avanti, qua abbiamo la conferenza di Yalta con qua, questa è molto difficile da spiegare così velocemente, dovete leggere perché è complicata, e sono le basi comunque dell'autonomia altoatesina, cioè, grazie a loro tre, e questo verrà fuori, fuori nel libro. Quindi la storia che ci raccontano è tutta falsa. Qua abbiamo le vacanze bolzanine, poi gli stabilimenti Fiat della fabbrica italiana automobili Bolzano, che potete vedere sono in quella zona dove adesso c'è la critica sul parcheggio fiume. Prima c'era un enorme edificio, poi è stato buttato giù, c'era la Juventus che era una squadra bolzanina che andava, lottava sempre contro questo Bolzano, che c'era sempre questa diatriba tra queste due squadre. Comunque questa è la fabbrica italiana. E poi qua arriviamo a Martin Luther King, che c'è col suo discorso alla popolazione, dove viene fuori questa sua lotta nei diritti, nella parità dei diritti tra italiani e tedeschi in Alto Adige, in un periodo storico, questo 63, dove era tutto diviso, autobus divisi, bagni divisi tra italiani e tedeschi, divisioni divisi tra vari italiani e tedeschi, divise tra italiani e tedeschi. Era tutto talmente diviso che lui a un certo punto ha detto basta. Così? Ma che persona che era questo? Carismatico proprio. Carismatico, ha fatto un grande discorso dove ha detto che aveva dei sogni, aveva un sogno, ma questo qua anche ve lo, non ve lo svelo troppo. Poi arriviamo ai Rolling Stones, e qua lascerei, comunque qua sono sull'altopiano Renon, lascerei la parola all'esperto Gullegar. Quello che si dice, perché c'è Franz Zanardo tra Che sai, anche lui è esperto di Rolling Stones. Attenzione. Esperto di Rolling Stones, Franz Zanardo, che li conosceva già dal Paleolitico inferiore. E che dire allora di questa fotografia, di questo scatto? I Rolling Stones sono stati in Alto Adige nel 69, e dopo il concerto di Altamont, Franz, se sbaglio invece non dire niente, e una anche qui una piccola curiosità sui Rolling Stones, diciamo ci sono delle piccole verità che nessuno ha mai avuto coraggio di dire di questa scampagnata dei Rolling Stones in Alto Adige. Brian Jones aveva acquistato una villa nel Meranese con una grande piscina, si racconta Tubaro in questa opera Omnia. Possiamo dire Omnia? Possiamo dire Omnia. Cioè, questa è l'opera Omnia sui Rolling Stones, sì, due pagine. Sì. Cioè, molto. Quello che c'è da sapere. La sintesi a volte è più efficace delle tante parole. Esatto, sì. È la prima cosa che ha detto San Francesco. Al pediatra l'ha detto. Allo stesso. Quindi. Qui lo scoop è che, appunto, avendo acquistato questa casa a Merano, Brian Jones, corre una leggenda, una verità che pochi sanno, che Brian Jones non è morto. Brian Jones, attenzione, non è morto. Brian Jones è stramorto. Questa è la prima verità che il lettore attento deve capire da questa opera. No, di Omnia, dello Stato. È il parolo, più o meno le parole. e casa, papera, scoiattolo, sole, le abbiamo già imparate, ok? Quando ha detto casa ho un po' paura, preso, però va bene. Un po' anch'io. La seconda cosa che Mick Jagger ci racconta, il dottor Tubaro ha provato soddisfazione in Alto Adige. Questa cosa mi ha veramente stupito, no? E appunto ho fatto un ragionamento, ho pensato che il motivo per il quale i Rolling Stones hanno optato per l'Inghilterra poi è stato perché in Inghilterra non avevano la soddisfazione che provavano in Alto Adige. Per cui, dottor Tubaro, mi corregga se sbaglio, si può pensare che i Rolling Stones siano stati i primi optanti. E da lì è nata, erano soddisfatti in Inghilterra. Soddisfattissimi. E da qui è nata la Satisfaction. Esatto. Erano tanti per quello che fa. No, 10, se fossero arrivati 10 sarebbero stati ottantissimi. No, c'è da dire, mi correggerà se sbaglio, che a Collalbo hanno inciso un disco che si chiamava Collalbum. Il disco Collalbum, sì, è un'opera fantastica dei Rolling Stones, scritta veramente. Erano proprio i primi, dovrebbe andare avanti due ore e tre quarti questa qua, i primi Rolling Stones. E quando l'hanno scritta? Questa l'hanno scritta, i primi, addirittura in un'epoca, proprio all'inizio, l'aveva scritta Renon, i Rolling Stones l'hanno scritta prima ancora che a Renon costruissero le piramidi, pensate. Esatto. Erano i primi del Settecento. Erano i primi. 680. Okay, grazie. Richard Bulega. Scusa, però volevi lasciarci anche altre due chicchette su Roberto? No. Su Tubaro possiamo aggiungere. Visto che sei preparato per la tua biografia che uscirà a breve. Il secondo libro di Tubaro sarà Io. Sento da lui. Allora, su Tubaro dobbiamo dire che è stato anche un abile politico. Ormai queste cose le sanno tutti, però bisogna un attimo sottolineare. Ha solo sbagliato lista. No. Si vergogna, Non si parla di politica fino al 5 marzo. Fino al 5 marzo, che è la festa dell'onanismo Biancaneve e sette ore. Okay. E il dottor Tubaro è stato anche un abile politico, ha iniziato la carriera come umile mugnaio nel 489, pensate. Sapevano un po' questo, eh? Mugnaio, è partito come mugnaio e i suoi genitori penso che possano confermare, nel 589 è asceso al soglio dello Stato Pontificio. È stato più come i suoi genitori, sono tutti i miei genitori. E quindi è salito al soglio pontificio, è stato appoggiato, pensate, sia dai Longobardi che dai Bizantini. Questo è stato, poi è passato alla storia come il famoso golpe del soglio alla mugnaia. È così, tu lo sapevi? Non lo sapevo. Non importa, è la biografia delle cose che non sai. Ma non mi ricordo più. Perché questa è il taglio che si dà, lo studio di Alto Adige Unito e diviso. La parte divisa non lo sapeva. No. Sì, è un bel nome. Grazie comunque, Richard Bulegan. Andiamo avanti con le storie di Roberto. Andiamo avanti molto velocemente, qua c'è il lancio dell'Apollo 11 a Hun Elf. Dai prati del Talvera che sono stati realizzati prima di quello che tutti sono convinti, cioè non negli anni 70 ma nel 69, apposta per fare questo lancio. Si dice che il giorno prima del lancio Armstrong, che si chiamava, che è uno quello che è andato su sulla Luna, no? È stato intervistato astronauta. Mentre sta astronauta, no. Non mi viene al tempo. Ha scritto un libro, ma non sa le parole. Astronauta. Ok. È stato intervistato mentre stava salendo sullo Stelvio e lì ha detto: questo è un piccolo passo per l'uomo, ma un grande passo per l'umanità. Era il passo Stelvio. Era il passo Stelvio. Questo comunque è una cosa. Ciao, Tubaro! Qui abbiamo. Poco dopo sono in realtà arrivati e quindi qua abbiamo i primi altoatesini, i primi uomini sulla Luna. cosa abbiamo fatto? Abbiamo portato delle mele, un pezzo di erba che resiste alle condizioni atmosferiche della Luna, latte, chi non ce l'ha un pezzo di terra che resiste alle condizioni atmosferiche? Tutto quello che ci spuntano sopra, guarda! E la nostra bandiera, simbolo della nostra autotesinità. Qui siamo in via Cassa Risparmio, quando i Beatles hanno registrato il loro album Sparkas Strasse. Sì, questo sarebbe tante cose da poter dire, perché Paul McCartney è scalzo. John Lennon, l'ho tagliato perché sennò sarebbe stata troppo lunga. In un altro articolo si vede che è di Live, se lui era pendolare. Soffi setanato. Lì c'è il dubbio, perché non si vede bene la faccia. E niente, questo è Sparkas Strasse. Qui abbiamo Cassius Clay che in un incontro a Bolzano, quando ancora c'era la box in Piazza Valle, quando ancora Bolzano, cioè l'Alto Adige, era il regno della box, no? E infatti Bolzano si chiamava Bolzano Boxen. C'era un fotografo particolare. Sì, c'è un fotografo particolare, è bellissimo. Bello, bello. Sì. E qui potete vedere che Cassius Clay ha cambiato un nome in Andras Ofer Alois, perché lui si è convertito nell'autoattesinità e quindi ha preso Andras Ofer come simbolo, cioè, tutti dicono Mohammed Ali, no? Andras Ofer, mito, Andras Ofer, un nome lungo intero, Alois. E non vi dico neanche perché Alois. Ma mi piace che era stato finanziato dalla provincia del comune questo incontro. Sì. E questo è importante perché a suo tempo. Pensa alle polemiche sul beach qua, il casino che ci deve essere stato. Impazzeranno le polemiche. E qui arriviamo in un altro capitolo che il professor Buller potrà brevemente esporci. Tony Montana, Narbengesicht. E il grande problema dei cartelli in Alto Adige, e qui potrà passare la parola a Rudegar. Sì, allora Tony Montana, perché il dottor Tubaro ha voluto raccontare di Tony Montana? Perché in fondo anche lui ha un po' ripercorso i passi di Tony Montana. Anche il Tubaro viveva a Porto Rico in condizioni. Sì, esatto, io ho letto. Anche lui è partito da Porto Rico con una piccola imbarcazione. Quanto era piccola questa imbarcazione? Così. Cosa piccolissima. E poi è arrivato addirittura in Alto Adige a Bolzano, dove ha fatto successo. Per cui Tony Montana è partito da Porto Rico ed è venuto anche lui in Alto Adige, però nel, diciamo, dell'intricato mondo del crimine, dell'intricato mondo dei cartelli. I cartelli in Alto Adige. Il problema dei cartelli in Alto Adige ha avuto la famosa dicotomia, la battaglia tra bande della droga col suo acerrimo nemico, Anton Montan, no? Yeah. E entrambi Tony. Sì. Ah. E da lì accendiamo il tono anche questo. Ecco, per cui la cartellonistica è stato un problema, perché si è riverberato, diciamo, anche nella società italiana questo problema della guerra dei cartelli, della cartellonistica, perché se un pensionato romano, ipotizziamo un pensionato romano X, magari con un passato da centurione, diciamo, classico, allora Y vorrebbe acquistare il suo classico quintaletto di cocaina. Chi è che non lo compra? Infatti. Vedo anche il monsignor Polato là in fuori. Ma tutti sull'Atemar prendono quello. Tutti sull'Atemar prendono il loro quintaletto di cocaina, invece si ritrova la scritta cocaina. Allora, l'Urid magari, eroin, vediamo. L'Urid. Non capisce più niente. Lui lo capirebbe. Ok, lo capirebbe, ma il romano lo capirebbe. E anche un Luis Rotto lo capirebbe. No, perché un Lurid, anche un Luis Rotto lo capirebbe. Ma un Luiso Rossi, immagino, un italiano. Un Luiso Rossi cosa capirebbe? Tornerebbe, praticamente un Luiso Rossi tornerebbe ritornerebbe vestito da donna e rientrerebbe nella sua, canzone. No, nella sua canzone di Battisti, Luigi Rossi. Richard Bulegar, un applauso. Al grande incontro tra Michael Jackson e Magnaglia Chi non se lo ricorda? Chi non se lo ricorda se non il nostro esperto Iocoletto? Grazie della parola. E sì, è una foto storica molto importante. Da una parte il grande cantante cantautore del pop altoatesino Michael Jackson, e dall'altra una persona a cui dobbiamo molto tutti in questa stanza, Silvio Smagliago, un pezzo della nostra libertà e anche per, grazie a lui. E ecco, diciamo che la storia, come ci racconta il maestro Tubaro nel suo libro, di Michael Jackson, prima era appunto Michele, giusto? Michele Joseph Bichler di Ragazzone, nato nel 1958, e appunto un ragazzo di 6 fratelli, no? E appunto lui ha fatto questa infanzia, questa adolescenza a Gargazzone, dove però inspiegabilmente era nero di colore. No, questa cosa si capisce, gli storici sono ancora un po' divisi su questa. Allora Roberto Tubaro porta nel suo libro questa parte un po' romanzata, che appunto è l'unico nero in zona, fosse il postino, questa cosa molti la smentiscono, le donne su tirolesi non vanno con i neri. Allora potete pensare che nel 58 Gargazzone è un posto utopico senza neri, appunto, quindi per questo si pensa più a un intervento divino. Poi appunto il giovane Michele Bichler, a quel punto, quando era giovane, si è accorto di cantare molto bene, cantava grandi pezzi, soprattutto nel coro della Musica Cappelle di Gargazzone, e poi una volta però proprio è andato a cantare a un funerale, e da come bene cantava la gente invece che piangere rideva, e addirittura il morto è uscito dal bar, così è nato il suo grande pezzo Thriller, che poi diventa il super pezzo mondiale. Ha smosso le coscienze e soprattutto venduto moltissimo. A quel punto lì passava un impresario che lo ha portato in America, dove che il giovane Michele Joseph Bichler ha voluto cambiare il suo nome, perché non appropriato ovviamente al mondo del pop, e una cosa che facevano i suoi nonni probabilmente, sì, insomma, prima era una pratica fascista, ma una volta che lo ha fatto un nero nessuno ha detto niente, e così è diventato il famoso Michael Jackson. E in questo incontro con Silvius Magnago hanno parlato di molte cose, però un aneddoto, qualcosa che hanno detto, un segreto. Dopo 20 minuti Silvius Magnago lo ha dovuto liquidare perché aveva un incontro con il Bauer, appunto. Grazie mille Gianluca Iocoletto. Grazie a lei, Gabriele. Grazie. Ho sentito qualcosa. Andiamo avanti con la storia. Siamo nell'89, quando appunto c'è stato il crollo del muro di Bolzano, questo muro che divideva l'Alto Adige in due parti, una che era praticamente comunista e l'altra che era sotto il controllo degli alleati. Non vi dico la felicità di poter entrare nel centro storico di Bolzano, che era controllato dagli alleati, dove la gente finalmente ha potuto rimangiare il würstel del baracchino e tutte quelle classiche cose che si fanno in centro storico. E niente, questo è il momento in cui vedete dietro il monumento della vittoria, il muro di Bolzano davanti. Qui abbiamo l'alieno del Similano, questo alieno trovato nel 92 su appunto il monte Similaun. C'è una lunga storia di questo alieno, e per qualche motivo ora tutti lo chiamano mummia, ma in realtà è un alieno, e da quella finestrella si distorge un po' la realtà, quegli occhi si rimpiccioliscono e sembra quello che noi chiamiamo Ötzi, ma in realtà è un alieno. D'altronde la mummia è sempre la mummia. È vero, sì. È vero. Qui abbiamo Osama Bin Laden, anche lui nel 2001 si è trovato in Alto Adige in villeggiatura, in realtà stava cercando dei posti dove nascondersi poi in un successivo attentato che avrebbe fatto, ma innamorandosi dell'Alto Adige lui ha detto no. No, però poi oltre no ha detto no, voglio trasferirmi qua in Alto Adige, essere sul tirolese, cambiare nome in Osama Bin Laden e farmi dare uno di questi bellissimi cappelli col marchio Cappello Sutirol, no? E andare in giro per i monti, e adesso ancora se cercate lo trovate. Ci tenevo solo a dire che è uno dei pochi capitoli, forse l'unico, non lo so, ma correggimi, no, forse no, in cui c'è proprio l'intervista a Osama Bin Laden, quindi ne vale ancora più la pena di prendere questo libro, l'unica intervista a Osama Bin Laden. Lì potete, no, no, sì, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, 3 anni di studio, grazie. Qui abbiamo la piramide Redon, accennata prima anche dal professor Bullegard, e una cosa importante è Tutankhamun era questo faraone che appunto ha fatto costruire tutte queste piramidi che oggi non sono più così visibili in questo modo, sembrano dei piccoli cose che fai in spiaggia. L'effetto degli agenti atmosferici nel decorso dei secoli. Nel decorso dei secoli erano così, però. Anche qui ci terrei a dire che si trova anche una canzone scritta per Tutankhamun. YouTube, voglio essere Tutankhamun. Voglio essere Tutankhamun. È musicista anche, ho detto. Qua abbiamo questo pianeta Pandauer dove. Questo è uno dei due o uno dei tre che sono nel futuro, no? Quindi qua andrete nel futuro. Vi troverete questo pianeta, l'Alto Adige vuole conquistare nuovi pianeti per portare l'altoatesimità in giro per l'universo, e arriva in questo pianeta Pandauer dove trova queste creature che in realtà sono più sudtirolesi di noi sudtirolesi, e quindi questo personaggio qua sulla sinistra deve superare una serie di sfide per diventare anche lui un abitante di questo Pandauer, tra cui suonare una musica a pelle, fare Schuhplatten, giocare a vatten, vincere un torneo di vatten, una serie di cose di questo tipo. E arriviamo alla fine, in questa Boldano del 2113. Qui praticamente abbiamo un problema di surriscaldamento globale che ha portato un innalzamento del livello del mare. Il buon Durvalder, che in realtà non è morto ancora perché il Dalai Lama gli ha svelato in realtà il segreto della terra giovinezza in cambio di un Würstel. Questo è così, il Dalai Lama è più semplice, così si conquistano i vegani, questo, quel Würstel del baracchino. Allora cosa ha fatto Durvalder? Nel momento in cui si è reso conto che il livello stava alzando sempre di più, ha fatto una diga a Salorno, è la famosa diga di Salorno, e nel frattempo però un po' d'acqua era passata perché non è stato così veloce, nel frattempo ha inondato praticamente casualmente la parte più italiana dell'Alto Adige, ma comunque è arrivata a metà Bolzano. Però nel frattempo Bolzano è diventata la città preferita come meta turistica estiva del mondo, addirittura si narra che il sogno del 95% degli abitanti del pianeta sia quello di lasciare tutto e aprire un chiosco a Bolzano. Sì. E quindi questo qua, questa è l'ultima visione con granite al Canederlo, il ghiacciolo di Ezzi, tutta una serie di cose, il Cristo Redentore portato, perché nel frattempo tutto il resto si è distrutto, la spiaggia presa rubata da Senigallia con un mare bellissimo. Quindi sì, questo è l'ultima capitolo. Ecco, allora ci ringraziamo l'autore del libro Mondi, e alla quinta lezione della mia scuola, dell'Accademia di Moderatore, era quella di chiudere in modo degno, lasciare il pubblico con un'emozione forte. Ma prima di questo, magari le ultime parole dei nostri ospiti, che ringrazio: Gianluca Iocoletto, vuoi dire qualcosa? È andato stato bene? No. Ok, perfetto. Valerio Martel, presidente onorario, grazie mille Valerio. Richard Bullegard, storico ed esperto di Roberto Tudor. Una chicca veloce su Roberto Tudor. Una chicca velocissima, semplicemente: cosa ha dato Roberto Tudor al pubblico? Tutto. E il pubblico a Roberto Tudor cosa ha dato? Niente, ancora niente. che ci teniamo a precisare che di vero, forse non ci sono le storie, ma di vero c'è questo libro che potete acquistare qua dietro, se non sbaglio, Bolzano Caput Mundi. E allora io chiudo così: intanto tutti i moderatori a un certo punto leggono una parte del libro, no? Musica, musica romantica, non posso mettere musica. Ok, allora silenzio, atmosfera importante, ok? Scusate. Silenzio. Non è stupidato. Ho un sogno. Sogno che un giorno in Alto Adige piccoli italiani, bambini e bambine, possano unire le loro mani con piccoli tedeschi, bambini e bambine, come fratelli e sorelle. Ho un sogno, un'unica cultura sudtirolese, altoatesina, un'unica scuola, un'unica chiesa, un unico spazio per i giovani, un'unica sanità. Un giorno ogni valle verrà elevata, ogni collina e ogni montagna sarà spianata. I luoghi aspri saranno piani e quelli tortuosi saranno dritti. Certo, qualcuno dirà che così l'Alto Adige assomiglierà più alla pianura padana, ma questa è la mia speranza, questa è la nostra speranza. E quindi lasciate risuonare la libertà dalle cime dei prodigiosi Corno Bianco e Corno Nero. Lasciate risuonare la libertà dalle poderose cime dell'Atemar. Lasciate risuonare la libertà dalle altitudini delle Alpi di Siusi. Lasciate risuonare la libertà dalle rocce coperte di neve del Similau. E se il Südtirol Alto Adige sarà una grande provincia, lotteremo perché questo si avveri. Questo era il discorso di Martin Luther King in Piazza Walter. Bob, lasciaci con un ultimo consiglio per questo libro e per contare. E poi salutiamo tutti. Io sogno di poter fare un'altra conferenza con il moderatore dei moderatori, Diego Maruffaldi, che oggi ha recitato la parte di Diego Maruffaldi. Oh yeah! Ricky Weller ha recitato la parte di Richard Burger, Vladimir Martello di Valerio Martello, e Gianluca Iocolano, Giancarlo Iocoletto. Grazie a tutti.